poi spero che però, ecco, su tutti questi contenuti molto interessanti della relazione, cioè, che sono profondissimi, poi ci sia la richiesta di qualche approfondimento. Io volevo un attimo solo fare una considerazione che va oltre, diciamo, la sua relazione, mi permetto, cioè, la misericordia diventa anche diciamo, la speranza e la salvezza del mondo, però, cioè, nel senso che lei ha parlato della misericordia, la relazione Dio uomo, uomo Dio, diciamo, ecco, però io penso che nel mondo che, in cui viviamo, con tutte le sue complicazioni, proprio di misericordia non si parla, e nello stesso tempo la misericordia forse quello che ci vuol dire anche il Papa è che è la chiave di salvezza del mondo, cioè della nostra realtà in cui viviamo. Come facciamo a parlare di misericordia in un mondo che ha dei canoni interpretativi della realtà totalmente diversi, cioè, perché poi alla fine viviamo in mezzo a un mondo che funziona in modo diverso, no? questa è la sfida, perché l'unico modo di parlare di misericordia è vivere la misericordia, cioè uno dei problemi della nostra epoca è un'epoca che passa dal reale al ideale, proprio per non vivere la misericordia, per non stare al gioco di Dio. Cioè, la pretesa di avere, se tutti siamo figli, la pretesa di essere autonomi può svilupparsi solo in un momento in cui mi stacco dalla realtà. E quindi mi metto a pensare, faccio un esempio molto concreto che forse è un po' chiarito, no? Cioè, nessuno oggi dice che facciamo degli omicidi in bambini non grandi, tutti dicono che fanno dei porti. Cioè, noi dobbiamo trasformare la realtà e uccidere un bambino nel seno di sua madre con una parola che ci sembra bella pulita, bella tranquilla, la porta, una questione di conflitto di diritto tra la madre e il bambino, no? Finita. Ora, proprio in questo ambito, per me è l'origine della crisi di misericordia nell'epoca contemporanea, perché uno si illude che facendo così, cioè mascherando questa realtà con un nome, non cambia niente. Invece cambia tutto, perché i bambini ti dicono: ma scusa, no, ma allora se io nascevo con un altro modo tu mi facevi fuori. Questo senso di inadeguatezza, di non andare bene, che si parla, secondo me non c'entra col fatto che sui giornali, diciamo, si parla di programmare i bambini con gli occhi azzurri, quando poi continuo con solo il fisico prima. Ragazzi, questo è contro l'evoluzione. Cioè, l'evoluzione va avanti grazie a Dio, no? Cioè, Newton, penso a Darwin, penso che sia fisica, la forza della persona. Cioè, Darwin ci ha insegnato che sono gli errori ciò che permette di trovare modi di migliorare, no? Ora, se noi eliminiamo gli errori, geneticamente ci avremo la sua problema. Cioè, noi siamo destinati all'estinzione. Poi, diciamo, tutta la versione mi sembra potenziale della lotta all'omofobia, come concepito oggi in modo ideologico, questo riporta ancora di più all'estinzione. Cioè, tu fai bambini o li fai in un giorno affitto, cioè, è speranza, ma non per un ragionamento cattolico. Cioè, qui è una questione da contadino, cioè, come funziona, è la scienza, non so come dire. Poi, visto che la scienza è determinata dai soldi che diamo, allora si cerca anche di aggiustare loro in un certo modo, no? Però qui c'è proprio un problema di realismo. Cioè, la mia questione è il realismo. Quindi, il mondo non conosce la misericordia oggi perché non è realista. Nel mondo è realista. Ora, l'unico modo di rompere questa cosa è vivere la misericordia, quindi andare a baciare in piedi un carcerato, perché questo fa notizia. Perché rompe, no? Rompe col modello. Ora, a me spiace che di fronte a questa rottura chi si turba è chi legge il Vangelo e quindi se un tizio che è andato a casa dei pubblicani, che si è fatto baciare i piedi delle prostitute, cioè una roba che non mi sta bene, perché mi sembra che il rischio forse è di aver confuso il cristianesimo con ancora una serie di nomi e di forme che non sono il cristianesimo, che è un rapporto con l'uomo lì, che è Dio, che bacia i piedi è peccatore, no? E lava i piedi in anticipo a Pietro che lo sta per salire. La speranza di misericordia. Ora, quello che Papa Francesco secondo me è esattamente la stessa cosa che ha fatto Papa Benedetto. Solo che Papa Benedetto, che era un professore, in un certo senso ha messo in Papa Francesco è un grande pastore, lui sta traducendo quella roba di fatti in parole. E qua si vedono, c'è anche io e ragazzi, io ragazzi qui, ragazzi che poi sono seminaristi, preti, ragazzi qui, l'unico modo per recuperare il cristianesimo è tornare negli anni di turismo, cioè tu devi far vedere cos'è una mucca, cioè devi fare che si accoppiano due cani. Un po' di tempo fa, io ero a Roma, sento Giulio, in via dei Coronati, in giro, e c'è uno che parla col cane che l'ha chiamato Giulio. Ma uno che va a chiamare Bocchi e Fuffi, cioè non è vero, ma ti sento Giulio, come? Non so se però non chiama il cane Zenzi, però mi sembra una parola sbagliata, non si vuole, cioè, e che qui ormai proiettiamo l'umanità culturalmente sulle bestiali, sono Papa. Sono 10 anni che dicevano una certa cosa, si può avere più bene ai cani e gatti, che è una cosa buonissima, ma non è buonissima, è più bene ai cani e gatti rispetto alle missioni di casa, rispetto al tuo amore, ti spiego, se vengono lì non funzionano. No, perché alla fine stiamo costantemente lavorando non sulla realtà. Quindi io penso che il mondo che non conosce la misericordia sia semplicemente un mondo non realista. Cioè, è la stessa cosa della vita economica, è una bolla. Cioè, sono parole. Tu, ero in macchina, ho portato in stazione oggi a Milano un amico di Cantù, il suo di Cantù, falegnato, no? E sta parlando della finanza. E è uno che sa di finanza perché è miliardario, è un falegnano di Cantù che va a Londra, a New York a fare, diciamo, le super case, i super ricchi, no? È un gran artista, è un gran artigiano, un artista, insomma. Però quello che diceva la finanza, no? Dico, tu come fai a convincere un falegnano di Cantù a comprare un option, no? A investire in un prodotto derivato dove se il prezzo del petrolio supera di un centesimo una cosa guadagni tanto, se no guadagni solo, se dov'è il legno, cioè dov'è la casa, dov'è il mobile, no? Dice corto di intelletto, forse no. Infatti io ho un amico che è rianzolo di lui, che è lì un superfondo a Parigi, che investe solo in vite che vede buio, cioè lui si dedica a girare il mondo, in Italia investe solo in un'azienda alimentare, perché l'unica roba di cui finita è un'azienda alimentare, finito, perché l'alimentare va e io ho visto come lavorano, cioè poi alla fine il realismo, cioè la realtà è fatta di misericordia, quindi noi dobbiamo riportare il mondo alla realtà, non è un discorso di parole, un discorso di fatti, lo so, è un discorso proprio di toccare con mano, di... e poi anche lì quando con i ragazzi, io ho dei ragazzi ateri che vengono a trovare i senza tetto, vengono a trovare gli handicappati gravi, felici, perché stare in relazione con queste persone ti dà, non ti toglie, cioè è un investimento, loro ne fanno esperienza, perché se noi ci aiutiamo tutti cambia radicalmente il mondo. C'è una frase che non ho citato nelle cose di mister, se Dio è come è il primo e noi assumiamo questa prospettiva, cosa succede? Succede che se io che sono in alto mi abbasso verso chi è in basso, non c'è più chi sta in alto e chi sta in basso. Siamo tutti uguali, si crea veramente l'amore, si crea veramente l'uguaglianza. Ma perché io che sto in alto mi abbasso come Dio si abbassa, no? E questo mettersi in ginocchio, questo prendersi sulle spalle, diciamo, l'altro che cambia il mondo veramente, ed è l'atto più rivoluzionario che esista, cioè è l'atto più provocato, più terroristico che esista, no? questo cambia veramente, questa è la vera rivoluzione, non lo dico in termini, cioè dico in termini di anzoro, cioè è l'unica cosa che funziona, non è una cosa che è veramente efficace. Cattolicissimo Pannella. povero Pannella, insomma, sarà anche la tomba di una casa. E infatti c'è questo, dice, in molti casi adesso mi sembra che la Chiesa, attraverso anche l'Orlando Francesco, insomma, un po' sembra che stia cedendo troppo il passo al mondo, a quello che vuole il mondo. E, però dall'altra parte, appunto, io sono convinta anche di questo, che questo è il senso che faccio lei, di andare a prendere, appunto, a ritrovare l'ultima pecora, eccetera. Ma come si fa a spiegare a queste persone che effettivamente può essere anche vincente una comunicazione così, tipo, perché poi lei mi diceva anche che Giovanni Paolo II è stato un grande comunicatore, però non ha mai messo a rischio, o non ha mai dato da pensare, non si è mai dato così in pasto alla stampa e media, in una maniera tale che i media potessero fraintendere troppo quello che può essere anche la verità. È una bellissima domanda, perché è molto reale, e appunto l'esperienza che ho anch'io varie volte di persone con questo problema. Allora, io penso che quello che sta avvenendo semplicemente è un cambio di epoca. Il Vaticano II è venuto per questo, il Papa Francesco è stato, i suoi predecessori africani del Vaticano II. Ora, cosa succedeva in un contesto in cui la Chiesa era maggioritaria, in cui la cultura era cristiana? Succedeva che tu dovevi semplicemente segnalare i pericoli. La gente era già cristiana, nasceva cristiana, dovevi tenere fuori le mani, quindi dichiarare direttamente quando entrava un pensiero, un'idea contraria a ciò che dava la verità, a ciò che dava la verità al tuo mondo. Allora, quindi l'esercizio fondamentale di chi è cresciuto, della cultura che si è sviluppata, del modo di essere cristiano che si è sviluppato in questo contesto, è un esercizio che lavora sull'idea e dichiara, diciamo, vero e falso rispetto all'idea, per ostracizzare, cioè vedere fuori l'idea pericolosa. Non questa è il modello. Che è un modello molto medievale, perché il Medioevo è un mondo dove tutti erano d'accordo, cioè Tommaso, per esempio, non ha davanti non credenti, ha davanti o ebrei o islamici o cattolici. Terzo mondato, no, quarto mondato, questo caso, no? Non è stata scoperta l'America, non ci sono di fronte i selvaggi, tra virgolette, che magari sono i milioni, non c'è stata la riforma protestante, cioè non c'è differenza, c'è una grande unità. Ora, questo è frutto della vittoria del cristianesimo, cioè il cristianesimo riesce poco a poco a conquistare il mondo, non nel senso di occupare lo spazio, una cosa che non piace a Francesco, ma adesso si inizia un processo, cioè un processo per il quale veramente questa verità misericordiosa, che in realtà proprio perché misericordiosa, diventa il fondamento di una società, di un mondo. Ora, nel momento in cui questo crolla, nel momento in cui non siamo più in un mondo cristiano, per esempio c'è il controllo sociale, il paese di mia mamma una volta, prima di mia mamma arrivavano 3 giorni donne, che abitavano in una casa e non avevano lavoro, quindi era evidente che avevano come lavoro il lavoro più antico del mondo, e le donne del paese le scacciarono ammazzate letteralmente, perché dicevano i nostri uomini non li toccavano, però questo si chiama controllo sociale, no? Cioè un po' avere un paese, un posto piccolo, no? Ora invece in un mondo che potremmo dire frantumato come quello oggi, un mondo pluralistico, io vengo soltanto dall'opinione mia a Londra, cioè Londra per me è un esempio pazzesco di cos'è la realtà. Cioè a Londra c'è il pakistano, c'è l'indiano, c'è l'africano, ma la stessa università della Santa Croce è un posto dove, pur essendo tutti cattolici, quasi tutti quelli che frequentano, però abbiamo il cinese, l'africano, il tedesco, l'americano, c'è di tutto. Ora, in questo contesto della cultura del cristianesimo, non è vissuto come, non è la base della società. Se tu continui a fare il gioco di abolire l'idea pericolosa, cosa passa? Passa che tu escludi la persona, che è esattamente il contrario di quello che ha vissuto Gesù, perché Gesù ha sempre distinto la persona dall'idea, cioè consiglio di farisei, non corrisponde alla verità, ma andava la canzone dei farisei, come andava lei. Cioè l'episodio per me non mi prende il Vangelo della peccatrice pubblica che va a casa del fariseo, è un esempio di questo, Gesù è a casa del fariseo, anzi, non è dialettico nei confronti dei farisei, non fa un discorso di categoria, no? Va da tutti, e questa donna entra nella sua relazione col fariseo, entra nella casa mettendo in pericolo la sua vita di donna, perché se Gesù avesse detto fuori, il fariseo aveva ragione per farla lapidare, perché aveva contaminato la sua casa. Il fariseo sarà stato affliggere dicendo: ci fa questa sporcaccione in casa mia, mi contamina la casa. Se Gesù diceva: cosa ci fa questa sporcaccione, quella era finita. Se invece Gesù dice: guarda come brava questa, anzi, conosci la legge più di te, perché mi lavo i piedi e tu non mi lavato le mani, capisci, lei un bacio pieno, tu mi hai dato un bacio. Cioè, anche qui è il realismo, no? È andare. La cosa reale, la persona non l'idea. Le idee sono strumenti. Quando io ho comunicato al mio maestro, che era un sacerdote piccolino spagnolo, del sud della Spagna, che il prelato dell'opera mi aveva chiesto di andare a Roma a fare il teologo, lui mi ha detto: bambino mi chiamavo, perché il sud della Spagna è più che la mia. Ti lascio una mia verità. La mia verità è questa: quando inizi a credere a quello che pensi, lascia la teologia. Tu devi credere solo a Dio e ti deve costare. Cioè, è Dio, è la realtà, è la persona concreta, l'idea è strumentale. Lui mi ha detto: bambino mi chiamavo, perché il sud della Spagna è più che la mia. Ti lascio una mia verità. La mia verità è questa: quando inizi a credere a quello che pensi, lascia la teologia. Tu devi credere solo a Dio e ti deve costare. Cioè, è Dio, è la realtà, è la persona concreta, l'idea è strumentale a quello. Perché, appunto, la realtà è superiore all'idea. Altro principio di Papa Francesco, uno dei quattro principi fondamentali, insieme al tempo supera lo spazio. Però, in questo senso, il problema è che la Chiesa viene percepita nel mondo come, diciamo, qualcosa di estremamente contrario alla misericordia. Io mi dico che in questo contesto la Chiesa viene concepita come una questione irrazionale. Cioè, io sono contro gli omosessuali perché sono prete, mia cugina mi dice: ma tu mi vieni omosessuale perché sei prete, cioè, proprio perché sono prete, ma io mi vieni omosessuale. E ragionando c'è molto bello vedere come lei capisce. Un giorno mi ha detto: no, guarda, io sono molto fan di Madonna e di Lady Gaga, perché loro aiutano tutte. Secondo me è molto importante andare a mostrare come l'essenza del cristianesimo è curare la persona concreta indipendentemente da cosa pensi. Cioè l'altro è Cristo, anche l'altro pannella, che fa le battaglie per la liberazione della droga, che fa le battaglie contro la Chiesa, che ha fatto anche un gioco politico, non so se in buona fede o in buona fede, questo corrisponde a Dio, ma non è, ma pannella è un uomo e va cercato, va amato, va servito, no? Ora, è chiaro che qua non bisogna confondere, non bisogna scandalizzare, non bisogna dire che è buono quello che ha detto Pannella, ma bisogna dire che Pannella era buono, non so. Ma a me sembra che il Papa lo fa chiarissimamente. Molti sentite ci sono delle affermazioni che mi direi: ma perché non le citate in un certo modo, no? Cioè, ha una forza, anche questa affermazione sui gatti, sui cani. Ditemi che si concede alla stampa, cioè che questa è una concessione a pensiero alla pace. Mi sembra assolutamente no, cioè Francesco è un altro terrorista, no? Cioè è un signore che è un vero giurista, cioè un giurista, una persona che per 15 anni viene formato nel modo più serio che esista, a ricerca i segni dei tempi, e una volta che lui in coscienza è convinto che quella è la cosa che Dio vuole, neanche il Papa lo può far cambiare idea. Sei il Papa, figura che c'è. Anzi, ci prende gusto, è proprio. E forse lo Spirito Santo è l'ultimo Papa della giurita, però perché adesso serve uno che tiene il timone, anche se tirano le bombe, no? Cioè, signori, questa è per tirare le bombe da dentro. Cioè, no? Poi mi dico, gesuita è gesuita, quindi gesuiti non si capisce mai cosa dicono. Gesuitico, dico, prima ho capito di esserlo perché gesuita. Secondo, non mi sembra tanto gesuitico, non sarà rimarrà sempre in piedi transessuale. Questo vuol dire? Cioè, se baci i piedi, come dire, tu vai in chiesa, no, se baci i piedi se vai in chiesa. Ma proprio quello lì bisogna baciare i piedi. Ma sta dicendo che vuole essere transessuale, non è vero. Questo è il passaggio, non è vero. Gesù non ha detto che era buono essere fariseo, non ha detto che era buono essere pubblicano. Da Zaccheo a casa mangia con lui e dopo che Gesù ha mangiato con lui, Zaccheo dice: tu resti poveri. Gesù non dice: se dai ai poveri vengono a casa tua. Questo è il cristianesimo, questa è la misericordia. Cioè, è solo questo. Io capisco che non ho paura, però ancora qui facciamo un atto, anche io, cioè, più, che anche siamo qui, la presenza della Mosè, San José Maria, diciamo, penso che veramente si ricorda del modello di tutte le cose, cioè, prima il Papa, cioè noi siamo cattolici perché il Papa dice che siamo cattolici, non noi diciamo il Papa sia cattolico, cioè, un racconto molto bello di Giovanni XXIII, c'era l'ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Santa Sede, che era una protestante che si era convertita al cattolicesimo. E quindi una volta ho sentito questa donna che parlava all'orecchio di Giovanni XXIII, molto accalorato, e a un certo punto Giovanni XXIII mi ha detto, e si è sentito perché ha detto forte, ma guardi che io sono già cattolico, no? Cioè, è interessante, lo spiegava al Papa come si fa il cattolico, cioè sì, che noi dobbiamo imparare dal Papa, lui è un maestro, ma se no il Papa ci va bene solo se dice certe cose. Se fa la messa in latino, proprio un Papa che fa la messa come mi piace a lui, che prega un sacco, perché io ho concentrato con il Papa, e proprio adesso prega, che lui cosa ne conta, il latino, il greco, il turco, corra un po', non parla di un fai come vuoi, ma prega, se prega o non prega, è una pagliacciata, se in fondo ci sia cacciato dalla della cosa, però, cosa, non è che tu puoi scegliere, cerca di capire invece cosa ti sta dicendo Dio. Dio, la Chiesa non va avanti grazie alla coscienza e la responsabilità di uno. Infatti Papa Benedetto ha un articolo scritto di cui raccomando molto la lettura, che si chiama L'Oggi della Coscienza. In quell'Oggi della Coscienza racconta un episodio di Newman, al quale si sta per convertire, si è convertito, non mi ricordo, e gli dico di fare un'intesi, di cosa rinda il Papa. Facciamo prima che il Papa rinda la coscienza. Episodio raccontato. Il Papa Benedetto, che poi prende coscienza rinunciando al solito pontificio, cioè lui ha vissuto quello che aveva sempre detto, no? Cioè, anzi, c'è un articolo molto bello che anche uno molto noto questo, come spiegava il primato Joseph Ratzinger, che dice il primato è una struttura martiriale, dove martiriale vuol dire non solo essere esposto al martirio, ma vuol dire che la funzione del Papa è rendere testimonianza con la sua coscienza a quello che ritiene essere vero. Quindi da Cesare in poi ci vuole uno che si gioca in coscienza quello che ritiene essere verità e se la gioca lui. Ci vuole un padre che dice: io penso che il vero sia questo e rischia la mia vita per questo. Ma questa è la funzione del tuo Papa. Ed è bellissimo, questo bisogna pregare per il Papa, pregare perché la stampa non è di cui quello che dica, non cercare di spingere all'unità in questo momento, cioè veramente vi supplico, cioè tirate all'unità, qui tra i buoni, tra i non sono quelli cattivi, ma tra chi ha fede e chi ha sempre seguito il Papa, ci sono persone che si scandalizzano del Papa, questo non, cioè, non si può permettere, cioè, non va bene, mi dispiace, non va bene, questo non è cattolico, finito. Ma le profezie! E poi Socci che dice che allora è stato letto in modo. Ma siamo. Cioè, cosa fuma Socci? Scusate, cioè, cosa è successo? Cioè, si può levarsi in questo mondo, cioè, allora, non si può, non si è imbarazzante, cioè, imbarazzante. Cioè, io della gente formatissima, voi che mi sarò imbarazzante, mi stai dicendo? No, poi il grande Cristo veniva, c'è il sogno, ma che sogno di chi? Renric. Gente che non si è mai fidato le mistiche, no? All'improvviso amanti la rima, che contadino, la terra, le mucche, i cani, diciamo, il papa, terzo bene, terzo posto, no? Immagini un parroco di questi beni di livelli concreti in tutta la vita che si vede che no, è la rima, è il cioè, un po' di buon senso. scusate la voce, però col cuore, guardate col cuore, quale se ci vuole. Ecco la domanda. Allora, appunto parlando di questi buoni notti, una delle critiche maggiori che si è sentito in giro è questo fatto che per il Papa adesso è tutto misericordia e il peccato non c'è più. Quindi il peccato, la confessione, cosa rispondere a queste persone che non hanno applicato questo concetto? Io rispondo con la frase che mi ha trovato un prete, diceva qui veramente per essere nelle grazie di Papa Francesco deve essere una prostituta, oh, perché a noi preti le suore ci massacrano come le bestie, no? Cioè si accorge una severità, cioè si nota una severità pazzesca nei confronti di chissà cosa è il peccato. E quello è il problema. Cioè il problema non è, cioè se io parlo del peccato a chi non ha il senso del peccato, allontano da Cristo chi non ha il senso del peccato. Vi racconto una diana, che i buoni sono già scappati, chi non ha il senso del peccato non ce l'ha. Non è che parlare di peccato è come con i figli, non è che dire, ah, beh, fare queste cose. Di fare il buono e di fare, cioè, una delle frasi più importanti che, della mia vita di prete, me l'ha detta Bill Foles, che tutti lo conoscono, un super ingegnere che ne sapeva della vita tantissimo. Ha detto, Giulio, sai come il contadino forma il figlio? Un po' di idee ce l'ho, però, sono brianzolo, però, anche se un figlio è un contadino, no, non si. E dice, allora, guarda, lui, quando arriva l'epoca dei figli, sa che il figlio rischierà di andare a prendere i figli, che sono sull'albero e il legno, diciamo, è sottile, diciamo, è fragile, quindi rischia di cadere. Allora, la prima cosa che deve fare il buon prima di dire al figlio, guarda, non devi andare sull'albero perché il legno del figlio così cosa è rischia, no? Ma non basta. Perché? Perché il desiderio è più forte. Quindi il buon contadino sa che il figlio andrà lo stesso sull'albero, questo andrà a prendere i fichi che sono più in alto, non c'è più sole, dove il legno è ancora più tenero. Poi il buon contadino, oltre a dare il comando, spiegare la ragione, deve anche togliere le pietre da sotto l'albero e far crescere la barca sotto il fico. Perché così quando il figlio cadrà, perché se è figlio di suo padre c'è un altro, perché il contadino per i fichi, diciamo, vivere con i figli, non se i figli, si farà meno male. Cioè quello padre rialza che è caduto, no? E questo per me è proprio un esempio. Allora, io penso che il senso del peccato lo capisci solo per rapporto a te. Cioè tu capisci cos'è il peccato se conosci l'amore. Per questo i grandi santi dicono essere grandi peccatori. San José Maria voleva che si scrivesse sulla sua tomba un peccatore. Non hanno disobbedito, cosa interessantissima, l'obbedienza non è letterale, no? E fece scrivere il padre. Ora, per me la cosa bella, bella, bella, ma proprio bella, bella, bella, bella, quelle due robe che coincidono. Cioè, non hanno disobbedito, obbedito. Perché un padre, la prima roba che sa è che è peccatore e che deve comunicare il senso del peccato al figlio e il senso della misericordia. Questo è essere padre, dire guarda, nonostante i tuoi limiti di niente, vado prima di esistere. Cioè, questo c'è nel primo, non so se Franco, non Giulio, è bravo, no? Se è... Oh, Franco non mi dice, ma è fatto matto pure lui, però dice delle cose bellissime, tutti questo commento ad anni, no? Cioè, la domanda che fa un papà, cioè che un bambino fa suo padre, la domanda fondamentale del padre è, ma vale la pena di dire? Cioè tu mi hai messo il mondo, ma mi dici che vale la pena questa vita che mi hai dato? Ma questa è la vera questione. Questo è il primo luogo, bisogna trasmettere l'amore appassionato alla realtà del mondo, ma mai il mondo appassionato, questo è ciò che dobbiamo fare. Poi, che lì c'è un pericolo, che c'è un altro, ma che insieme ce la faremo, cioè che si può sganciare sempre. Anche una delle scene più belle che mi sono sentita mia, insomma, Santa Croce ha bisogna stare a Santa Croce, vicino a Piazza Navona, la sede principale, poi gli uffici del professore sono vicino a Piazza Farnese, no? Quindi io attraverso Piazza Farnese vengo 4 volte al giorno. E lì vedevo sempre una signora che giocava con un cane, prendeva la pallina, la tirava e il cane era in lontano. Un gioco simpatico. tra un giorno vede un gioco nuovo. C'è un papà con suo figlio, prende il figlio, lo vede a una certa distanza, va indietro e dice niente. Quindi non era il cane che mi portava da lì, era il figlio che andava sul papà. Io sono arrivato proprio nel momento in cui il bambino si era fatto piatto per terra. Faccio terra. Ora lì, a un momento, non sapevo da finire, non ho fatto. Mia mamma, non so le altre mamme, ma mia mamma sarebbe corsa verso di me. Mi avrebbe riempito di coccole, io avrei pianto per farmi coccolare, mi avrebbe gelato. Cioè mia mamma sarebbe venuta verso di me. Quel papà invece per me era il mio papà, è rimasto fermo. Bambino tutto piegato per terra, papà fermo, abbracciato, che gli domanda, ti sei fatto male? Oh, il bambino ci pensa subito, io sono entrato proprio, cioè vedevo proprio l'osservatore privilegiato, quindi vedevo le lacrime del bambino, no? E come bambino di fronte alla domanda del papà, non della mamma, del papà, ti sei fatto male? Stava per fare sì, però no, ha ingoiato la lacrima, no? Papà dice, ce la fa adattarti? Io ho fatto sì. Si è stato e aveva trovato. Ma questo è un padre, cioè quello che ti aiuta a superare la tua sfida. Ed è giusto che la mamma venga da te, eh? Cioè, è giusto, non tu hai bisogno di quell'amore a te stesso che ti dà la mamma, ma poi hai bisogno dell'amore al mondo che ti dà il padre. Se no non riuscirai a avere una donna, a fare figlia, scusate, la, cioè uno per mettere al mondo un figlio, deve credere che il mondo è buono. Cioè il mondo si regge proprio ontologicamente, metafisicamente, sull'atto che ogni uomo, nella dimensione più privata della sua vita, per l'amore per sua moglie e viceversa, compie nel mettere al mondo un figlio, rispondendo alla domanda è bene esistere o no? Sì, l'atto più privato che esista, più intimo, più sacro, che non va mostrato, ha una valenza pubblica, storica, universale, perché sta rispondendo a questa domanda. Proprio questo per me è un pensare contadino, non so, scusate, un pensare realista. Però se tu non hai questo, non hai neanche il senso del peccato. Se non hai il pieno, non hai il vuoto. Se non hai la musica, non sai cos'è il rumore. Se non hai la parola buona, non sai cos'è la schifezza. Cioè, bisogna, si forma dando il bene. Per contrasto si capisce il male. Perché il male non è un'altra cosa, è assenza di bene. Il male è come il buio, eh. Il chiudere le finestre non c'è più la luce. Ma quello è il male. No? Ma se io non do il bene, no, la parola già sta andando il bene. Mi sta male, mi sta facendo. Il senso del peccato, noi lo capiamo, insomma. Una cosa che io non sapevo se applaudire, abbracciare il Papa, fare la ola, da solo impossibile, però era molto importante. Riunione di Papa Francesco con tutti i seminaristi del mondo. Quindi Alan Erdi, non so, 4.500 seminaristi giornali, no? Da tutto il mondo. Papa Francesco che parla prima dell'attesa al concerto, gli inglesi che cantano, il collegio inglese tutto finissimo, poi arrivano gli africani che parlano. Grida, da spettacolo, no? Arriva Papa Francesco, non faccia stupire. Perché quando un prete inizia a bere, è un problema. Ma il popolo glielo perdona. Va bene per un prete, che la tentazione è uno, perché uno sta da solo, no? Sente il dolore degli altri e ti sente un peso. No? Ma cosa? Tu banale, soprattutto in Sud America, che sentiamo chi è, sarà bene. Prete alcolizzati, purtroppo, è un fatto di prima regola, perché non bere mai da solo, cioè bevi ma non da solo, no? La grappa, benissimo, con gli altri bene, no? Con gli equipaggi piani, mai da solo, no? Proprio proibito non da. Poi, se, i formatori del seminario, con i capelli di cacio, cioè, se il prete inizia a bere, il popolo li perdona. No, io, senso, questa è la per ricarda, perché ti piace, perché è un provocatore, non so. Poi se un prete ha una scivolata con una donna, come si dice, no? Il popolo glielo perdona. Poi la terza c'era gente che tremava, cioè, se mi ha visto, effettivamente, sentivo, questa è una cosa che la dice Paolo, che è la gente mio, no? Non vale per, questa non vale per tutti, no? Cioè, perché hanno paura, ma che non c'è nulla, no? Cioè non sappiamo più cosa poteva dire, cioè adesso cosa dice, no? Ma se un prete non è povero, il popolo non lo perdona. Ed è questo è il senso del peccato, cioè il popolo. popolo perdona la debolezza, come Gesù Cristo, non perdona la superbia, come Gesù Cristo. Cioè, se tu pensi di essere un popolo, prendi agli altri non come tu, questo il popolo non lo perdona, e ha ragione, non perdonare. Come dire, non perdonate, mi chiede perdono, cioè, ma ti chiede perdono che è il senso del peccato, che è il senso di chi si avverte di essere andato contro l'amore, ma chi non conosce l'amore, come fa a andare, o chi non ce la fa, no? Cioè, per me è un po', che poi l'immagine anche dell'ospedale, no? Cioè, la chiesa, l'ospedale accanto, si fa tutto per curare, no? Non per andare a dove stanno bene. Sono parole di Gesù Cristo, non è sempre una questione novità, cioè è una novità perché è una novità eterna, come lo vediamo, però è il Vangelo, è la buona notizia. Scusate la passione, un'altra domanda. Ma il senso del peccato non viene dalla natura, cioè uno non ha conosciuto l'amore, però la natura ce l'ha, quindi sì, viene tutto. Questo è vero, però anche la natura, noi non conosciamo mai la natura in modo immediato, lo conosciamo sempre in modo immediato dalla natura, no, no, questo è l'Italia, io penso sempre, scusate, ma io ho subito di professione una ragazzina ziga, che a Roma in centro ci sono molti ziga, non che chiedono le cose, no, questa è una ragazzina molto bellissima, sempre con la mamma, e io ero veramente preoccupato di questa ragazzina, che tutto il giorno doveva stare così, figurati, no? Quindi cercavo, mi chiedeva che cosa, non ho mai dato niente, no? Ti ho portato l'icona della Madonna, cioè le davo cose e la formavo cristianamente un po', cioè, ma tu sai che io, no? Sai che la Madonna, la madre di Dio, cioè, insomma, ma la mamma, sempre sotto gli occhi della mamma, perché aveva capito che ero buono e me lo permetteva, no? Ora io però pensavo, questa donna, questa bimba, da una parte è povera, moralmente povera, suo padre è cubano. Per lei rubare è bene. È legge naturale che rubare è sbagliato, sì. Ma se tuo padre lo fa, per te non viene rubare, anzi, sei scemo se non pubblici puoi rubare, no? Ora, in fondo la questione natura, natura con natura, è la questione della relazione, cioè che io accedo alla natura attraverso la relazione con qualcuno, attraverso mio padre e mia madre, attraverso la mia famiglia. Se no, cioè, mi ricordo un prete che è siciliano, perché finivo con un'altra famiglia, no? Che... Ora, tutto è mediato attraverso la fede, i rapporti, le relazioni familiari sono fortissime, una carica. Quando c'è stato il femminile, mi hanno mandato un'immagine del padrino, con scritto femminile, la famiglia è importante, cioè, c'è un senso, era un po' un ora. Nello stesso quella bambina di zia è più ricca di moltissime mie che conosco, perché ha un po' per me. Cosa non ascoltare? Perché non parlo di ma papà, ma ci sono persone, bimbi di qualità di in tessuto urbano, soprattutto nella strada, che non conoscono il loro bene. Perché con la mamma di magari però poi ci sono che hanno subito, non voglio fare immagini di zia. Però la legge naturale, no? È strana, perché? Perché noi siamo anche cartesiani e facciamo fatica a capirli. E perché per giunta non esiste una legge naturale che non sia legata alle relazioni. Noi accediamo alla natura sempre attraverso le relazioni. E se queste relazioni ci stanno schermando la natura, noi non la vediamo. Per questo l'uomo è un animale che ha bisogno di relazioni. Perché io sono un fanatico delle scuole, per esempio qui di Verona, no? Perché scuole promosse dai genitori, perché in generale non finisce col mettere al mondo un figlio. L'uomo è un essere che non si conclude, non è determinato dai suoi istinti, è un essere che viene generato costantemente attraverso le relazioni, quindi è giusto che i genitori continuino a generare i figli promuovendo la scuola dei figli, non è un impegno, non è un surplus. È parte dell'atto di generarli, perché il dare una cultura che sia realista, cioè che li metta in relazione veramente con ciò che è parte dell'atto di generare. Allora, questo è ciò che manca, cioè quando il Papa dice che si è rotto il patto tra genitori e scuola, è una cosa bellissima, noi abbiamo genitori che fanno i compiti ai bambini, così i bambini non puntano i bambini, no? Se i professori professori mettono i contributi ai bambini, vanno più che una colpa del professore. Cioè, questo evolutivamente è molto più utile. Cioè, questo atteggiamento è un atteggiamento incapace di diventare uomo, quindi incapace di affrontare la realtà. Quindi questo evolutivamente è la fine. I genitori che fanno così stanno, diciamo, rovinando le loro figlie e gli stanno impedendo di entrare nel mondo. Poi vanno, poi si vede. Ora, io penso che questo è un po' questo rapporto con la natura che passa attraverso non solo la cultura, ma le relazioni, cioè la cultura in senso alto, nel senso è essenziale. Noi siamo tutti portatori, quelle cose che vi ho detto ce l'ho anche dalla mia famiglia, dai miei nonni, da mia mamma, da mio papà, dai miei amici, no? Da Santo Sendoria, da Locus Dei, da Vite, più polis da Locus Dei, ho parlato da lui, cioè. E il rapporto con la realtà passa attraverso persone. L'unica cosa che possiamo fare, come genitori o come preti o come quello che volete, è far venire alla gente la paura del mondo. La paura del mondo, questo mondo l'ha fatto Dio, ci può essere il male, ma vale la pena di esistere, no? Cioè il bene più grande è sempre. Uno sbaglia, il male fa male, non uno che pecca, se ne accorge di più il peccato. Ora è chiaro che sempre si usa la misericordia, sempre si. Che non vuol dire non è peccato quello che fai, è peccato quello che lo sai, non ce la fai fare, lo so, perché riconosci che è un peccato. Questo è un po' il punto dove anche si capisce, si sviluppa il senso del peccato. Non so se. Però è paterno questo, perché non è se sbagli non ti escludo. Ma io ti tengo qualsiasi cosa tu faccia per farti capire che si sbaglia. E poi, visto che la natura ha perso questo, per lui c'è le cose che superano. Io ho avuto paura che di fronte al senso eccessivo di responsabilità di noi cattolici ci sia una mancanza di fede nel creatore. Perché le robe le ha fatte Dio, le ha fatte Dio. Quindi il peccato deve essere, diciamo, una cosa che fa male alla gente, se ne fa, se gli dai il bene. La gente si dice, guarda, non sei tutto, grazie, Dio non sei tu, no? Cioè, non è quello il punto. Anche lì è responsabile, mi ha fatto riflettere molto un amico, un professore, mi ha detto, guarda, responsabile vuol dire capace di rispondere. No? Ora tu sei responsabile solo di ciò che qui sei capace, abile, a rispondere. E tu non sei più, solo Dio è responsabile di tutto, io sono responsabile di chi Dio mi mette vicino. Responsabile delle conversioni delle persone, sono responsabile di cercare di predicare con il cuore, di prepararmi, di lottare per essere santi. Poi c'è una cosa che mi raccontò assolutamente Don Giuseppe Righina, che lo conosce, che mi ha aiutato tantissimo anche come sacerdote. Allora non ero sacerdote, ero all'inizio della mia vocazione. E una volta un prete predica, no? E dopo una meditazione arriva uno e dice, guarda, volevo ringraziarla perché oggi veramente ho capito che mi devo conoscere. Il sacerdote dice, scusi, qual è il momento della tua vita? Perché così lo uso per gli altri, non per altri, no? Perché sì. Quando lei ha detto, scusate, devo girare pagina. Io ho capito che dovevo girare pagina. Tu capisci, cioè, non posso fare più niente. Non funziona. Perché lo Spirito Santo, mi è successo qualcosa che ha fatto Dio, no? Come dice un prete anche, cioè io professionale, tanto come mia professione della direzione spirituale, che io andrò, però non ti ha detto questa cosa, ho detto bravo, non ho coscienza della verità. Se in questo momento dovessi dire cosa penso di quella cosa, penso il contrario, però non te lo dico perché ovviamente stai facendo un cammino del genere da Cristo, ma è proprio il contrario, dico, cioè ho messo un nome, no? E quella roba lì ha convinto la persona a tornare a Cristo. Cioè, bene, ringraziamo il Signore per la prima volta, no? Cioè, è Dio responsabile, noi non ce la facciamo. Non capisco il problema, non capisco il problema, però perché penso che adesso dobbiamo lanciarci su questa dimensione che ci porta e fa. Bene, se non altre domande? io volevo chiedere quello che ha fatto prima, se non ho capito male. Si vuole convertire, lo vedo. La realtà è più importante delle idee, sì. Ma la realtà è frutto dell'applicazione delle idee. Com'è questo? Non riesco a... L'applicazione no, cioè... No, l'applicazione mi esprimo male. È il frutto di convinzioni che derivano dalle idee che io qui attuo. E quindi sì. Realizza una realtà e che fa capo delle idee. Però non c'è solo quella di realtà, cioè c'è anche una realtà che non è determinata dalle idee. Non c'è. Per esempio, io posso pensare a un piatto di pasta adesso, penso, credo che non è l'idea di un piatto di pasta, ma non c'è un piatto di pasta, perché non sono io. No? Sono solo le idee di Dio che diventano realtà. No? Noi poi, in quanto immagini di Dio, possiamo trasformare la realtà in idee. Quindi si può avere l'idea che, non so, con la tecnologia posso trasformare in un uomo, una donna, un uomo in uomo, e lo faccio, no? E quello, in parte, è una realtà che è frutto di un'idea, no? Ma c'è una realtà più grande, dentro qui è una realtà piccola, che è indipendente dalle nostre idee. Cioè le idee dell'uomo hanno una forza militare. Ne parla dell'uomo. Allora, il punto è che le idee dell'uomo funzionano, sono veramente feconde, nella misura in cui aderiscono alla realtà di Dio. No? Quindi nel momento in cui ci alleniamo con quello che pensa Dio, che diventa veramente reale. No? Proprio il discernimento di cui parla il Padre, questa roba qua. Cioè, io ho una capacità elegibile di pensare, ma queste cose che penso e trasformano in realtà saranno veramente, cioè avranno un'efficacia, avranno un frutto nella misura in cui sono in accordo, sono in sintonia con quello che fa Dio. Per questo anche la Laudato Si. La Laudato Si non è una concessione del Papa Francesco al pensiero ecologico contemporaneo. San Francesco era la persona meno alla pari, meno, diciamo, più ruvida che è un mio pensare. Francesco stesso, no? E anche proprio Francesco è un po' rubido, cioè non è l'anticristo che ci ha trattato tutti, cioè ci vedrà proprio tra l'esterno con Francesco che ci ha mano a tutti, destra, sinistra, sopra, sotto. Ora, il punto è che come scienza in questo caso, cioè scientificamente la mia teoria vale, le mie idee valgono e funzioneranno solo nella misura in cui corrispondono alla realtà. A un dato reale. Io non posso dire, diciamo, che le cose vanno più su, cioè se io metto questo bicchiere lo faccio vedere, va giù, cioè, e no, io faccio la teoria che va in su, mi va facile, mi ha sbagliato, cioè non funziona. Se tu vuoi appoggiare l'occhio e poi sul tavolo, questo appoggio di occhio, cioè, questo è un problema educativo forte, cioè, è anche una cosa che vado a ripetere, la mamma che vede il bambino che sbaglia sul tavolo, i bambini che arrivano dallo spino, si frantuma la fronte sul tavolo, no? E la mamma dice: brutto tavolo, cattivo tavolo. No! Ma come cattivo tavolo? Cioè, mi ha prima consolato, ma non mi consolato, poi mi dava una specie, se ti ricordi che sei tavolo, cioè, casomai non ti fosse bastato per loro, ecco. Cioè, io ti tiro su, ma poi è la realtà fuori di te che comanda. Non quello che pensi, perché se tu continui a pensare puoi fare dei disastri, no? Cioè è vero che in qualche modo il mondo fuori di noi, la realtà è determinata dalle nostre idee, ma solo in parte, e il disastro di alcune nostre idee si verrà. Io confesso che ho fatto fisico dopo aver pensato di fare filosofo, perché ero un professore di filosofia bravissimo. Proprio bravissimo, ho studiato a Padova, sono esperto, è un cielo, è un città anche per gratitudine, per la paternità di cui io c'è suo figlio, anche su questo. E lui quando ho studiato dei greci, vedianismo appunto, io ero entusiasta, una roba così potente, così bella, così strutturata, cioè facendo il teologo appunto dogmatico, sono speculativo, quello che mi ha detto, wow. E poi non disse niente, spiegò che se invece ci fece vedere come marxismo e nazismo derivavano dal testo di Hegel, senza dire che erano sbagliati, che non ci c'è nulla su Hegel. Ci fermiamo a Hegel, adesso ti faccio vedere come i 6 milioni di morti ebrei fatti dai nazisti, più 1 milione di cattolici, non lo penso. Poi i 60, 70, non sapevo, 1 milione di morti fatti dall'Unione Sovietica derivano logicamente dal pensiero di Hegel. Io allora ho deciso di fare chimica. Sono andato a fare, ho cambiato idea. Cioè, perché? Non voglio che con dire che faccio morti, perché mi ha entusiasmato così tanto. Poi una roba che quando faccio l'esperimento mi dice no. Mio papà mi ha detto, però guarda, tu sei un po' distratto. Quindi il no dell'esperimento può essere pericoloso, no? Vediamo quanto lui si chiama saltare un laboratorio, tuo papà, c'hai ragione, faccio fisica. Mio papà ha detto, non nucleare, vero? Grazie, veramente.